Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Sono le 17.10, buonasera a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Focus Economia, il punto della giornata economico-finanziaria. Questa sera abbiamo la terza sostituta, anzi la seconda sostituta del programma, condotto invece sempre da Sebastiano Barisoni. Comincia naturalmente il periodo delle vacanze per tutti noi, per cui dovrete un po' abituarvi a questa alternanza ai microfoni delle nostre trasmissioni. Detto questo, insomma, archiviata la pagina delle giustificazioni, i temi di cui parleremo questa sera sono tanti. Ovviamente non mancheremo di fare il punto della situazione dalla Grecia, perché oggi le autorità greche hanno dato l'ordine di rimborsare un totale di quasi 7 miliardi di euro ai creditori internazionali. D'altronde si è formalizzato il prestito ponte, appunto, che serviva al governo di Tsipras proprio per restituire questo denaro che doveva al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Centrale Europea. Oggi tutti questi passaggi finanziari si sono consumati, per cui la Grecia, almeno per queste scadenze, si è messa a posto, anche se lo ha fatto naturalmente attraverso altri prestiti. Ma la giornata è importante per la Grecia oggi, lo era perché sono state riaperte le banche dopo 3 settimane di chiusura e sono entrate in vigore alcune delle misure, appunto, che erano state chieste dai creditori internazionali, dalle autorità europee, proprio anche per ottenere il prestito ponte. C'è stato l'aumento di 10 punti dell'IVA su alcuni beni e servizi ed altro, di cui parleremo tra poco con il nostro Vittorio Darolde, che nel frattempo intanto da Atene è rientrato. Gli altri temi dei quali parleremo, ovviamente parleremo anche di queste vicende di casa nostra, le super promesse di Matteo Renzi, che ha annunciato questo patto fiscale con gli italiani, ha annunciato un piano di tagli per 50 miliardi da qui al 2018. Si dovrebbe partire già l'anno prossimo con l'eliminazione totale di una delle tasse più invise dagli italiani, le tasse sulla casa, dell'IMU sui terreni agricoli. C'è sulla casa, come sapete, l'IMU c'è già l'esenzione sulla prima casa, ma c'è la TASI, la tassa sui servizi indivisibili. Poi dal 2017 è previsto un nuovo taglio del cuneo fiscale. Il governo, per alleggerire il carico fiscale sulle imprese, vuole intervenire su IRES e IRAP. Nel 2018 si prevede invece, almeno questo è l'obiettivo di Renzi, una sforbiciata all'IRPEF, ma anche un intervento sui pensionati che non hanno avuto niente in questi anni, per cui si ipotizzerebbe anche un bonus da 80 euro alla platea, appunto, dei pensionati. Ad oggi c'è da dire che non è chiaro con quali risorse tutto questo grandissimo progetto, questo patto fiscale con gli italiani, verrà finanziato, ma insomma cercheremo anche di capirlo con i nostri colleghi delle Sole 24 Ore. Matteo Renzi dice: l'importante è che il Parlamento vada avanti con tutte le riforme sulle quali stiamo lavorando, perché troveremo le risorse per alleggerire il carico fiscale che grava sulle spalle degli italiani. Di quali altri temi parleremo poi questa sera? Abbiamo un certo fermento in borsa. Oggi l'Europa è positiva, anche se adesso viaggia un po' al di sotto dei massimi di seduta che sono stati toccati in mattinata. C'è un violento ribasso sul mercato delle commodities, delle materie prime, un violento ribasso del prezzo dell'oro, che ha toccato il livello più basso degli ultimi 5 anni, sotto i 1100 dollari l'oncia. È la Cina che sta determinando questo andamento, perché si è appreso oggi che le riserve auree della Banca Centrale Cinese sono molto meno di quanto il mercato non credesse, e questo ha avuto un impatto, appunto, dirompente sulle quotazioni. Naturalmente non c'è solo questo, poi da un esperto di materie prime ci faremo spiegare bene cosa c'è dietro a questo movimento. C'è naturalmente anche la questione che presto i tassi di interesse americani aumenteranno, e quindi anche questo incide sulle quotazioni. Faremo un punto della situazione, anche visto che stiamo sempre puntando il dito addosso al debito greco, 315 miliardi di euro che valgono il 180% del PIL, appunto, di Atene. In realtà Fabio Pavesi del Sole 24 Ore ha fatto i conti sul debito mondiale, che vale tre volte il PIL mondiale, per cui in realtà ci sono delle aree molto più indebitate, la Cina è una di queste, ma non solo, e quindi faremo un punto della situazione per capire quali sono le aree che dobbiamo veramente temere e se veramente la situazione diventasse insostenibile per certe aree del pianeta, altro che situazione greca e tutta la fibrillazione che appunto la situazione greca ha determinato. Insomma, di temi anche stasera di cui parlare ne abbiamo a bizzeffe. Intanto, come sempre, potete commentare i fatti del giorno intervenendo attraverso il 349 238 6666 è il numero che potete utilizzare per i vostri messaggi, le vostre domande, se vorrete, le vostre osservazioni. Adesso andiamo alle notizie in breve. Alle 17.45, ma intanto ve lo ribadisco, stanno veramente sprofondando le quotazioni dell'oro sui mercati sull'onda del rafforzamento del dollaro che sta spingendo al ribasso tutte le commodities e tutte le materie prime, con l'indice che appunto di riferimento si trova a livello più basso, quello complessivo, dal 2002. Il lingotto, quindi l'oro con consegna immediata, è scivolato sotto i 1.100 dollari l'oncia, il platino è al livello più basso dal 2009, l'argento ai minimi da dicembre, colpa della Cina che appunto, rallentando un po' anche dal punto di vista economico perché cresce solo del 7% l'anno, ha rallentato notevolmente anche la sua richiesta di queste materie prime. Ne parleremo tra poco. Naturalmente anche il petrolio va dietro a questa tendenza. Oggi il WTI, il greggio di riferimento americano, è andato intorno ai $50.50 al barile. Notizia dagli Stati Uniti, siamo nel pieno della stagione delle trimestrali. Come sapete, oggi ci sono stati i conti di un colosso della finanza mondiale, Morgan Stanley, che ha chiuso il secondo trimestre con profitti in calo del 4,8%, che però sono risultati superiori alle attese del mercato. L'utile netto è sceso a 1 miliardo e 810 milioni di dollari, 85 centesimi per azione, da 1 miliardo e 9 dello stesso periodo dello scorso anno. Al netto di voci straordinarie, l'utile per azione risulta pari a 79 centesimi, superando la stima media di 74 centesimi che era stata avanzata dagli analisti. Un esordio in borsa molto atteso oggi a Wall Street, dove peraltro il Nasdaq, l'indice dei titoli tecnologici, il Nasdaq composito, non il Nasdaq 100, oggi in apertura ha riaggiornato l'ennesimo record storico, ormai lo fa ad ogni seduta e quindi è ritornato ai fasti della bolla tecnologica dell'inizio, della fine degli anni 90 e dell'inizio del 2000. Cosa è successo oggi? Si è quotata a Wall Street PayPal, la piattaforma per i pagamenti, molto nota anche nel nostro paese. Praticamente oggi PayPal ha esordito a Wall Street come società autonoma separata da eBay, un debutto con un valore di mercato di oltre 46 miliardi e mezzo di dollari, circa 1,4 volte quello di eBay. Per gli investitori una quotazione, come dicevo, molto attesa, perché vedono in questa azienda un motore di crescita rilevante in contrapposizione invece al rallentamento degli affari per eBay. L'esordio è stato sul Nasdaq molto soddisfacente, perché il gruppo ha avviato le negoziazioni con una crescita di quasi il 10%, dall'altra parte invece eBay in avvio oggi perdeva circa 4,5 punti, poi c'è stato un po' di assestamento sulle quotazioni. Nel frattempo l'agenzia di rating Standard & Poor's è intervenuta immediatamente tagliando il rating di eBay. Andiamo alle notizie dall'Europa. Dalla Germania, il prodotto interno lordo tedesco è cresciuto dello 0,3% nel secondo trimestre. Il dato è stato fornito dal bollettino mensile del Ministero delle Finanze tedesco. L'Istituto di Statistica Federale fornirà i suoi dati definitivi a metà agosto. Anche nel primo trimestre il PIL tedesco aveva segnato più 0,3. E intanto il patrimonio finanziario privato dei tedeschi ha segnato un rapido aumento nel primo trimestre di quest'anno, toccando livelli record. Secondo la Bundesbank, rispetto al trimestre precedente, questo parametro, questo indicatore, sarebbe cresciuto del 2,8%, cioè di 140 miliardi di euro a 5.212 miliardi. Per gli esperti della Banca Centrale, questi numeri si devono alla robustezza del mercato costo del lavoro e all'aumento dei salari, che consente alla gente di risparmiare di nuovo, anzi di risparmiare anche più denaro di prima. Una sintesi veloce delle notizie dalla Grecia, perché poi tra poco approfondiremo questo argomento. Appunto, sono arrivati ad Atene oggi i 7 miliardi e 160 milioni di euro che la Commissione europea aveva garantito come prestito ponte ad Atene, un prestito ponte con cui poi contestualmente è avvenuto tutto nel giro di questa giornata. Atene ha pagato i suoi arretrati al Fondo Monetario Internazionale l'importante scadenza che aveva oggi con la Banca Centrale Europea. Oggi sono riaperte le banche, non ancora la borsa greca. Questo è un indicatore importante che magari commenteremo tra poco con Vittorio Darold. Per quello che riguarda l'attività delle banche, si tenta di ripristinare una normalità, c'è un prelievo massimo possibile di 420 euro, equivalente al massimo di 60 euro quotidiani, appunto, di prelievo ai bancomat, che è stato concesso nei 23 giorni di chiusura delle filiali. In Italia il rendimento del BTP a 10 anni è tornato di nuovo sotto non solo il 2%, ma addirittura sotto l'1,9% per la prima volta da fine maggio. Lo spread fra BTP e Bund era partito stamattina intorno ai 130 punti per poi restringersi di nuovo intorno ai 110. Allora, Renzi, anticipiamo di nuovo il tema che poi approfondiremo più tardi, dopo le 18, lo avete sentito, nel fine settimana ha preannunciato questo patto fiscale con gli italiani, un piano fra il 2016 e il 2018 che prevede una riduzione di tasse senza precedenti, faremo la rivoluzione copernicana senza aumentare il debito. Vi ho già raccontato prima come intende procedere l'esecutivo Renzi, intanto ha detto al TG2 ieri: è un patto con gli italiani, abbiamo sempre detto che finalmente, dopo tanti anni di immobilismo, si può. Sentiamo questo brano della sua intervista. Se le riforme andranno avanti, e io credo che andranno avanti, nel 2016 via tutte le tasse della prima casa, IMU e TASI, nel 2017 via una parte importante della tassa IRES, che è un bel colpo per gli imprenditori e per le aziende, nel 2018 scaglioni IRPEF e pensioni. È un patto che io propongo agli italiani. Se le riforme vanno avanti, noi saremo finalmente in condizione di abbassare di 50 miliardi le tasse nell'arco di 5 anni. Chiaramente la domanda che si fanno tutti è: dove si troveranno i 50 miliardi di tagli alle tasse per i prossimi 5 anni? Renzi assicura che le risorse ci sono, i numeri per portare a casa questo risultato, continuando ad abbassare il debito perché i nostri figli altrimenti dovranno continuare a pagare le nostre colpe, e non è giusto, ci sono, a condizione però che il Parlamento faccia il suo lavoro. Elimineremo da settembre molti carrozzoni pubblici, perché ancora lo spazio per fare quella che si chiama spending, cioè revisione della spesa, c'è. I numeri per riuscire a portare a casa questo risultato, continuando a abbassare il debito, perché altrimenti i nostri figli dovranno pagare le nostre colpe e non è giusto, ci sono, a condizione che il Parlamento continui a lavorare con intensità. Pensioni. Nei primi sei mesi di quest'anno sono state erogate 69.343 pensioni anticipate rispetto all'età di vecchiaia. C'è stato un incremento della distribuzione di questo trattamento pensionistico del 108% rispetto al primo semestre del 2014. Oggi è stato diffuso questo osservatorio IMSS che ha appunto scattato questa fotografia. Dopo la stretta sulle pensioni di anzianità introdotta dalla riforma Fornero, quest'anno, che era rimasto bloccato dalle nuove regole, ha cominciato però a maturare i requisiti necessari, che sono di 42 anni e 6 mesi di anzianità per il trattamento appunto anticipato rispetto al requisito anagrafico. Sui dati dell'INPS abbiamo i 100 secondi di Radio 24 ed RDS, questa sera curati dal vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. Oltre i limiti della luce c'è la tua infinita creatività. Con il nuovo smartphone Huawei P8 fotografi anche con pochissima luce. Huawei, make it possible. Vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Mentre aspettiamo di capire quali soluzioni troverà il governo per superare le attuali rigidità della riforma delle pensioni. Oggi arrivano i dati dell'INPS che testimoniano come quella dell'uscita anticipata dal mondo del lavoro sia un'esigenza, spesso una necessità molto sentita dai lavoratori. Vediamo i dati. Nel primo semestre del 2015 rispetto allo stesso periodo del 2014 si è registrato un forte incremento delle pensioni anticipate. Ecco, cosa sono le pensioni anticipate? Sono quelle che si possono ottenere prima del raggiungimento dell'età anagrafica di legge. Attualmente siamo a 66 anni e 3 mesi per gli uomini o 63 anni e 9 mesi per le donne, avendo però almeno 42 anni e 6 mesi di contributi per gli uomini e 41 e 6 mesi per le donne. Quindi la riforma Fornero ha abolito le pensioni di anzianità con l'esclusione dei salvaguardati e ha introdotto la pensione di anticipata, determinando un rallentamento nell'accesso al pensionamento. Quest'anno però i lavoratori bloccati dalla riforma cominciano a raggiungere i nuovi requisiti e infatti l'INPS registra una maggiore incidenza di pensioni anticipate sia tra i dipendenti sia tra gli autonomi. Per i primi in particolare una nuova pensione ogni 3 risulta essere una pensione anticipata, mentre tra gli autonomi siamo al 25%, cioè una nuova pensione ogni 4 è anticipata. Tutto ciò in attesa di sapere che cosa vorrà realmente fare il governo per rendere più flessibile le regole di accesso alla pensione. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Qualche altra notizia prima dei nostri approfondimenti di oggi. Migliorano i conti delle imprese italiane nel 2014. I profitti, lo ha rilevato l'osservatorio Cerved, sono saliti del 6,5% del patrimonio netto dal 5,7% del 2013. Sono scesi invece del 4,5% i debiti finanziari delle aziende italiane. Sale anche il ricorso ai mezzi propri, con il capitale netto in aumento del 4,2%. D'altronde probabilmente ancora il grado di sostegno finanziario e bancario non è soddisfacente per molte banche, per cui le aziende devono metterci ancora mezzi propri per sostenere la crescita. Comunque, dall'analisi di 133.000 bilanci risulta che ha chiuso in rosso un'impresa su 4, dato comunque in miglioramento rispetto al 27,7% del 2013. Resta ancora fragile la ripresa dei ricavi delle società italiane. La ripresa economica in Italia si sta consolidando. Di certo siamo fuori dalle secche della recessione. Si dice convinto di questo l'amministratore delegato di Unicredit, Federico Ghizzoni. Oggi è stato interpellato da molti giornalisti a margine, a Milano, dell'inaugurazione dell'Unicredit Pavilion, il centro polifunzionale in piazza Gaeo Lempi. Noi lo sentiamo al microfono di Adriano Palazzolo. Intanto questa ripresa, che era partita senza una grande velocità, si sta consolidando, un po' tutti stanno alzando gli obiettivi 2015, anche noi siamo sullo 0,7-0,8, si sta consolidando, pensiamo che nel 2016 sarà intorno all'1,2-1,3. È chiaro che spero che siamo solo all'inizio, mancano ancora investimenti industriali importanti per consolidarla, ma sembra che siamo finalmente fuori dalle secche della recessione degli ultimi anni. Abbiamo ancora un'altra notizia veloce prima della nostra pausa. La casa editrice Pearson valuta la vendita del Financial Times. Non è stata presa ancora nessuna decisione, una indiscrezione molto consistente che sta circolando tra gli ambienti finanziari, però pare che il quotidiano economico abbia attirato l'attenzione di diversi investitori, fra cui Axel Springer. Lo ha riportato oggi l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti. Pearson starebbe valutando la vendita dopo che il Financial Times appunto ha attirato l'evidente interesse di questi potenziali acquirenti, una vendita che potrebbe valutare il quotidiano 1,6 miliardi di dollari. In ogni caso nessun processo formale è in corso, però queste sono le notizie che circolano. Ricordiamo che il Financial Times ha una circolazione di 720.000 copie con gli abbonamenti digitali che ad oggi rappresentano il 70% del totale. Direi che possiamo fermarci, adesso abbiamo una pausa, dopodiché ritorniamo con la giornata di borsa, che intanto vi faccio un po' una fotografia veloce di quello che sta accadendo adesso. Siamo alle ultime battute, prima delle ultimissimi minuti di asta. Il FTSE MIB segna un rialzo di un punto percentuale, peraltro giornata molto interessante per Milano perché sta viaggiando ai massimi dal 2009, positive anche le altre piazze europee, ma nettamente più sottotono rispetto ai massimi che avevano toccato in giornata tra poco. Focus Economia. So che Pietro Lacorte è da un po' che non mi fa la regia, ma qua ci sarebbe stato bene il solito schirtacchi, come tu sai, però insomma, siccome ne avrà fin sopra i capelli il nostro Vittorio D'Arolda, abbiamo pensato di metterti una colonna sonora diversa. Vittorio, buonasera. Buonasera a voi. Il giornalista italiano più intervistato da tutto il mondo sulla questione greca, ormai si è ritenuto uno degli esperti in assoluto più autorevoli di questa super matassa. Ecco. Non sa, ovviamente ringrazi di un classico. Allora Vittorio, il tema del giorno, c'è stato questo principio dei vasi comunicanti finanziari che si è concretizzato, perché da Bruxelles sono arrivati questi 7 miliardi alla Grecia che creditori internazionali, le istituzioni europee avevano garantito come prestito ponte per naturalmente far fronte alle scadenze finanziarie di questi giorni, e arrivati sul conto della tesoreria del governo greco, immediatamente Tsipras ha dovuto girarli al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Centrale Europea, per cui ha chiuso debiti vecchi per ovviamente e contestualmente si è aperto questo nuovo. In Italia chiameremo questa iniziativa un consolidamento del debito, no? Un po' come quando uno ha un mutuo e vari altri prestiti, accorpa tutto per farne uno unico sostanzialmente di finanziamento. Un po' il principio è quello, ci sta. In ogni caso il clima è un po' più sereno, immagino, ad Atene, anche se tu sei rientrato adesso, questo possiamo anche dirlo ai nostri ascoltatori. Poi parleremo di banche e di altre cose, ma su questo che cosa c'è da dire, Vittorio? Sì, esattamente, è una partita di giro, come è avvenuto in passato: arrivano i soldi e poi immediatamente viene distribuito ai creditori, e quindi il debito che viene appunto aumentato ritorna ai creditori e si ritorna ad aver bisogno di un altro debito. La verità è che così non se ne viene a capo, e tra settembre e ottobre penso che dovremo tornare ancora ad Atene per verificare cosa succede, perché è possibile che ci siano elezioni anticipate. Nessun governo è in grado di pagare 200% del PIL in questo modo. Infatti in questo frangente autorità greche, i rappresentanti della Troica dovranno concordare anche il nuovo memorandum che contiene le riforme da fare nei prossimi 3 anni, e quindi insomma fermento che durerà ancora a lungo. Poi oggi il Sole 24 Ore scriveva, probabilmente il pezzo che porta la tua firma, Tsipras deve fare un crash test in Parlamento, no? Per verificare naturalmente se sono pronte ad esserci altre defezioni da Syriza, e lui addirittura dice che sarebbe pronto a dimettersi se dovesse verificare l'abbandono di altri parlamentari. Sì, esattamente, lui ha avuto già 38 defezioni importanti, ha spostato 9 ministri e il portavoce, quindi ha fatto piazza pulita dei ribelli. Naturalmente tutto questo porta a un costo, che lui sopravvive grazie alle politiche delle opposizioni che, lo ricordiamo, Neo Democrazia, PASOK e Topotami sono quelli che danno la possibilità a Tsipras in questo momento di far passare tutto quello che sta passando. Cioè stamattina sono aumentati l'IVA, sì, sui ristoranti, sono aumentate appunto anche per gli generi alimentari, per la pasta eccetera. Tutto questo ha un costo sociale, perché lui ha vinto le elezioni del 25 gennaio dicendo che l'austerity sarebbe stata finalmente accantonata, invece sta somministrando ancora la stessa tipo di medicina a un paziente ormai moribondo. Cosa dire? È evidente che la sua popolarità dovrebbe scemare, in realtà non sta avvenendo, perché il popolo dice, la maggioranza dei greci continua a ritenerlo l'unico personaggio politico credibile, nonostante abbia fatto la piroetta di dover rimangiarsi tutto quello che aveva proposto. Lo scenario della Grexit era proprio difficilmente immaginabile per tutti i greci, per cui hanno preferito al momento continuare a sostenere Tsipras su questa strada dell'autorità. Diceva Vittorio D'Arolda, appunto, da oggi c'è l'entrata in vigore dell'aumento di 10 punti dell'IVA su molti beni e servizi, ma oggi hanno riaperto anche le banche. Ma non la borsa, Vittorio. Che segnale è questo? È un segnale inquietante, perché se tu apri gli sportelli fisici, perché di questo si tratta, non puoi ancora accedere al tuo conto corrente se non con i 60 euro di limite personali a conto, e invece di fare la coda per esempio per 4 giorni puoi sommarli e quindi fare 240 euro, un unico prelievo ogni 4 giorni. Però il problema è che puoi fare i bonifici come prima, se tu avevi naturalmente la tua home banking, e puoi farla anche dal punto di vista invece della fisico se tu non hai l'home banking, e quindi fai bonifici interni, ma non puoi ancora pagare i fornitori esterni, i fornitori con l'export, quindi non puoi ancora fare questo. Tutto questo ha un costo per l'economia, perché ormai si prevede che da una crescita del 2,5 perderà del 3%, il 3%. E poi la borsa, che cosa vuol dire? Che hanno paura che ci sia un crollo. E infatti, questa è la verità. È anche una borsa molto piccolina, c'è anche da dire anche questo, per cui magari ecco proprio non ci dovremmo aspettare. Secondo me i mercati hanno capito che c'è ancora una questione aperta, cioè questo è solo rinviare. Ancora una volta l'Europa è stata capace di rinviare il problema. In questa è veramente un capolavoro l'Europa, perché riesce sempre a rinviare ma non a risolvere, perché il debito naturalmente non è stato aggredito, gli europei sono contrari, il Fondo Monetario vorrebbe ridurlo, c'è anche un litigio, una diversità tra gli stessi nella Troica, perché come tu sai il Fondo Monetario ormai è convinto della necessità di fare il famoso haircut, cioè il taglio del debito. Tutto questo invece non avviene, quindi... Però, abbiamo rinviato il problema. Però c'è l'apertura della signora Melker, che ha fatto capire che potrebbe aprire uno spiraglio a un possibile alleggerimento in termini di scadenze di tassi di interesse. Certamente il signor Schäuble avrà qualcosa da ridire su questo. Sì, c'è una grossa battaglia in Germania, c'è la cosiddetta dottrina Schäuble, che sono i falchi. Schäuble reputa la Grecia un'infezione che va amputata. E per il momento ha dovuto rinunciare, ma l'idea era quella proprio di metterla per 5 anni in parcheggio, aspettare decantare e poi buttarla fuori definitivamente. Per far cosa? Per creare un monito, per fare capire a tutti gli altri, della periferia che la questione è si rispettano le regole oppure si esce. Quindi che l'euro non è una moneta irreversibile. Certo. Naturalmente Mario Draghi la pensa in maniera diversa e come avrai visto è entrato prepotentemente nel meccanismo dando i soldi, poca cosa mi direte, però ha dato i soldi in anticipo addirittura dell'Eurogruppo. Quindi e ha ampliato anche la disponibilità d'emergenza per le banche. L'ultima cosa che ti chiedo, Vittorio, cosa si dice di questo rimpasto di governo delle ultime ore? Peraltro si è anche dimesso, anche questo è un tema molto interessante, responsabile della previdenza sociale Romanias, perché sostiene di non poter applicare la legge, ha provato, dice lui, una grande umiliazione nel portare avanti e fare l'esatto contrario dei principi in base ai quali era stato scelto. Lui ha detto di non essere in grado di gestire la nuova normativa e le riforme nel sistema pensionistico. Non posso, ha detto, dare una pensione di 87 euro ad un disabile. Sì, questo fa parte di queste nuove misure che sono in un certo senso sconsiderate, nel senso che vanno a colpire ancora parti della popolazione che hanno già ampiamente pagato negli ultimi 5 anni queste politiche di austerità. Perché? Perché il sistema fiscale non funziona, l'evasione è molto vasta, la corruzione anche, quindi quando tu fai misure di austerità in un paese che non riesce a distribuire equamente il peso di queste misure, si arriva a questi paradossi dove chi paga continua a pagare sempre di più e chi non paga continua allegramente a stare all'ombra di un bel ombrellone senza appunto neanche rendersi conto. Sono come due Grecie che vivono nello stesso paese, due mondi paralleli e separati. Questo è il vero problema, però ahimè lì non ci sono ricette facili, cioè bacchette magiche sono complicate. nel frattempo, per avere soldi subito, devi colpire sempre i soliti. Lui si è dimesso, quindi ancora una volta il mal di pancia interni a Siriza. Vittorio, ti auguriamo di non parlare di Grecia nei prossimi 5 minuti, non so se potrà mai accadere, però insomma sarai ancora un po' tormentato per qualche tempo. Grazie molte. Grazie a voi. All'instancabile Vittorio D'Arolda. Allora io direi che adesso forse magari un paio di minuti qualche storia di mercato di Piazza Affari la posso anche raccontare. E lo faccio con Andrea Fontana, collega di Radio Cori, Il Sole 24 Ore, che saluta. Andrea, buonasera. Buonasera. Allora, Milano si accinge a chiudere questa giornata con un rialzo dell'1,12% sul FTSE MIB, più 0,5% Francoforte, Parigi più 0,35%, Londra più 0,27%. La settimana parte con il segno positivo per i mercati europei, anche se la mattinata era stata molto più brillante. Tuttavia, Milano riesce a portare avanti una giornata che per Piazza Affari significa riportarsi ai massimi dall'ottobre del 2009. So che molti non ci crederanno, molti ascoltatori, quando dico, mi capita anche nella trasmissione del mattino, che le piazze finanziarie sono sui massimi di sempre, in tanti contestano, sì, ma prima che Piazza Affari ci arrivi. E invece piano piano pure Milano, Andrea. Sì, certamente Milano nel corso della giornata ha toccato i massimi nel 2009 che tu ricordavi, poi diciamo ha un po' ripiegato e adesso si è praticamente ha chiuso sui livelli del 15 aprile del 2015, poco di più, insomma sono i massimi dell'anno che poi dopo riportano ai livelli del 2009, quindi ha chiuso il gap della situazione greca e della crisi greca degli ultimi 2 mesi, è stata la migliore oggi con le banche protagoniste come sempre nell'ultimo periodo, in particolare le popolari, ma non solo. Ecco, bravo che lo hai già anticipato, perché adesso ci sentiamo il traffico e rispondo ad un ascoltatore che ci ha tempestato di messaggi, che dice: ma insomma avete qualche notizia sul risico delle popolari italiano? Non abbiamo tante notizie, ma le solite indiscrezioni che circolano, fra un po' Andrea Fontana ce le racconta, intanto suggerimenti per chi sta viaggiando. Focus Economia. Frattempo anch'io ho fatto un altro risico, quello delle cuffie. Allora, Andrea Fontana, andiamo un po' a raccontare questa giornata piuttosto brillante per il settore bancario italiano. Intanto i migliori: Mediobanca più 4%, Azimut più 3,65% che tenta di recuperare un bel po' del terreno che ha perso la settimana scorsa, Monte dei Paschi più 2,41%. Le popolari allora hanno brillato oggi, perché c'è qualche indiscrezione oltre alle vicende sulla trasformazione in SPA, ma c'è anche qualche altra notizia? Beh, sicuramente nel weekend, soprattutto il Sole 24 Ore è tornato a fare il punto sulle trattative, sui negoziati ufficiali o ufficiosi tra le varie popolari, e in particolare ha insistito su contatti avanzati per arrivare a un'alleanza tra UbiBanca e Banco Popolare, un'operazione che sembra già raccogliere alcuni consensi, anche se c'è da limare tutta una serie di questioni, soprattutto riguardanti il governo societario, ma sono molti gli scenari che si aprono, come il ritorno di fiamma possibile tra la Banca Popolare di Milano e la Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Diciamo che complessivamente nell'ultima settimana il ritorno di attenzione e la nomina dei vari consulenti da parte di questi istituti in vista di operazioni straordinarie che probabilmente entreranno nel vivo dopo l'estate, ha fatto correre molti di questi titoli. La Popolare di Milano ha guadagnato oltre il 10%, la Popolare dell'Emilia Romagna oltre il 7% nell'ultima settimana. Un titolo che si è mosso molto bene legato a questi discorsi è quello di Mediobanca. Perché? Perché Mediobanca da sempre svolge un ruolo di consulente, di advisor, ma sì, anche in prima fila nei varie operazioni straordinarie di aumenti di capitale eccetera. Molti analisti la vedono come un buon modo per scommettere sulle operazioni di consolidamento, perché non ci si coinvolge direttamente con il singolo titolo dell'istituto che si unirà che sarà protagonista nelle varie operazioni, ma è un modo per scommettere, perché poi le commissioni bancarie e le operazioni straordinarie porteranno Mediobanca in prima fila. Mediobanca che torna a fare il lavoro per la quale è proprio, potremmo dire, specializzata, no Andrea? Allora, sì. Miglior titolo della seduta però, Autogrill più 4,53%, non so se ci sono delle notizie da raccontare su questa azienda, ce ne sono però da raccontare su Finmeccanica, che mette a segno rialzo di quasi 3 punti. Beh, oggi partendo da Autogrill è stata una giornata ancora positiva per la gran parte di quei titoli delle società che sono più esposte verso il dollaro, visto che comunque si conferma la forza del dollaro che tiene l'euro sotto quota 1,09, quindi hanno beneficiato Autogrill, hanno beneficiato Luxottica e altri titoli, la stessa Finmeccanica è esposta nel mercato nordamericano. Il rialzo di Finmeccanica ha due motivazioni principali: innanzitutto un contratto importante nel settore degli elicotteri, 10 elicotteri, un contratto da 160 milioni in Russia con Rosneft, e dall'altro canto l'operazione annunciata da Lockheed Martin, che acquisterà la divisione elicotteri di United Technologies per quasi 9 miliardi di dollari, quindi un'attenzione particolare al settore aerospaziale che ha fatto bene anche Finmeccanica. Andiamo a vedere altri titoli in spolvero, bene Monte dei Paschi più 2,41, Luxottica più 2,30, qua probabilmente alcune società, Luxottica è una di queste, beneficia anche del dollaro che ormai ha ripreso a schiacciare molte altre divise. Andrea, non avevamo preparato questo argomento, però questa è una riflessione che ormai credo che si faccia da diverse settimane. Sì, sì, certamente questo vale per Luxottica in particolare, vale anche per altre come Campari, come la stessa Autogrill, chiaramente c'è un ritorno di forza del dollaro, un indebolimento dell'euro per come lo si vuole vedere, che ha un effetto importante sulle società che hanno una larga parte del loro fatturato in questa divisa. Allora, intanto, no, guardate, vi farei vedere che cosa sta succedendo in studio in questo momento, dove sto tentando di negoziare con i miei assistenti, con i nostri collaboratori, il prossimo argomento. Stiamo decidendo se traslarlo dopo le 18 oppure farne una piccola sintesi da subito, ma c'è già Maurizio Mazziero collegato telefonicamente con noi, perché vorremmo fare il tema dell'oro, lo faremo, adesso vediamo. Magari me la porto un po' per le lunghe con Andrea Fontana, anche perché di temi di cui parlare per quello che riguarda l'andamento della giornata finanziaria ne abbiamo. Mediaset, meno 1,41%, da stamattina peggior titolo della seduta, lo è stato sempre, peraltro c'è stato un momento in cui 40 titoli del FTSE MIB erano tutti positivi tranne il Biscione. Cosa è successo? È successo che qualche casa di investimento, dopo una lunga corsa di Mediaset, confermata poi anche nelle ultime settimane, ricordiamo più 38% dall'inizio dell'anno, dicevo, qualche casa di investimento inizia a consigliare una maggiore cautela sul titolo, che ha corso molto, soprattutto perché adesso si aspettano delle indicazioni concrete dal punto di vista della pubblicità, che è il fattore principale, oltre alle varie voci di vendita della Pay TV a Sky o altre voci di alleanze con Vivendi, ne abbiamo sentite molte negli ultimi mesi, ma poi il fattore concreto resta la ripresa del mercato pubblicitario. Qualche buon segnale è arrivato dal mese di giugno, ma tra pochi giorni ci sarà la semestrale e quindi lì si aspetteranno i dati concreti che la società potrà fornire. Il mercato non è ancora così convinto che la pubblicità stia ripartendo in maniera decisa e quindi qualcuno consiglia una certa cautela e il mercato oggi ha dato ascolto a questi consigli, diciamo. Allora, A2A più 1,55%, Standard & Poor's ha migliorato il giudizio e l'outlook sul gruppo, dicevamo prima di Azimut che ha recuperato 3,5 punti, ha avuto questo richiamo della Consob la settimana scorsa sulla distribuzione fra la clientela dei prodotti di investimento estero vestiti. Detto questo, Andrea, tirami la volata sui titoli petroliferi, perché poi vado all'approfondimento sulle materie prime. Oggi deboli Tenaris e Saipem, perché? Sì, diciamo che questi titoli continuano a soffrire di un petrolio che continua a correggere. Oggi il Brent sta perdendo lo 0,5% sotto i $57 al barile, e per quanto riguarda invece il WTI a New York è una flessione ancora più consistente, meno 0,9%. Non ne stanno risentendo tanto i petroliferi come Eni, nello specifico, che ha guadagnato oggi lo 0,5%, ma soprattutto quelle società che lavorano con l'industria petrolifera perché fornitori di servizi e di infrastrutture. Tenaris è una di queste e una di quelle che soffre particolarmente in questa fase. L'altro venerdì sono arrivati i dati sui pozzi petroliferi di trivellazione attivi negli Stati Uniti, si è vista ancora una certa debolezza, il titolo ha sofferto oggi meno 1,2%, ha sofferto in buona parte la seduta anche Saipem, che poi si è risollevata, ha guadagnato lo 0,7%, ma sono titoli sotto i riflettori perché hanno ancora una forte debolezza strutturale, tant'è che in Europa oggi il settore delle materie prime è stato ancora il peggiore, ha perso lo 0,6% l'indice generale. E questo non solo per colpa dell'oro nero, ma anche per colpa dell'oro oro, grazie ad Andrea Fontana e ne parliamo proprio adesso. Maurizio Mazziero della Mazziero Research, buonasera. Buonasera a lei e ai suoi radioascoltatori. Uno dei nostri ospiti preferiti in tema di commodities. Ha 2 minuti e mezzo di tempo, dottor Mazziero, per farci il suo editoriale sull'andamento dell'oro, che naturalmente è zavorrato, come dicono gli analisti, dalle crescenti aspettative di un aumento dei tassi di interesse americani, ma qua è soprattutto la Cina che oggi ha turbato un po' l'animo degli investitori. Perché? Sì, beh, la Cina venerdì scorso sono venute fuori i nuovi dati delle riserve aurifere, era dal 2009 che non si avevano questi dati, la Cina è sempre molto restia a dare questi dati, ebbene c'è stato un incremento del 57%, il che sarebbe una buona notizia, se non che gli operatori si aspettavano molto di più, cioè in realtà in pratica le 1658 tonnellate di oro che detiene la Banca Popolare Cinese rispetto alle 1054 del 2009 è ben poca cosa. Si pensava davvero che attraverso i flussi in ingresso che c'era a Hong Kong, la grande produzione, perché la Cina è il maggior produttore al mondo di oro, ne produce per il 14%, ebbene si pensava che ne detenesse almeno 2000 tonnellate, se non anche di più. Ebbene, questo non c'è stato, quindi in qualche modo delusione dagli analisti, c'erano delle speculazioni anche sul fatto che la Cina vorrebbe entrare tra le valute di riserva del Fondo Monetario Internazionale, non si sa, sono dati veri, sono dati falsi, il fatto è che quest'oggi alle 3.29 italiane, ora 21.29 della domenica di New York, oppure alle 9.29 di Shanghai, sono stati venduti in un secondo 2.270 contratti, che corrisponde a 7 tonnellate di oro. Trascinando il prezzo ai minimi degli ultimi 5 anni. Esattamente, è sceso immediatamente di $52 l'oncia, nel corso di un minuto ne sono stati venduti altrettanti, e è un'operazione che è partita da New York, non si riesce a capire come mai degli operatori possano buttare nel mercato così di notte, di domenica a New York, e così tanto stiamo parlando di qualcosa come 860 milioni di dollari in un minuto. Non si capisce perché, ma intanto a quanto pare riescono a farlo. Questo è il motivo per cui raccomandiamo spesso e volentieri grande prudenza nell'investimento in questo settore. Grazie a Maurizio Mazziero, che brutalmente devo chiudere perché abbiamo il giornale radio. Noi ci risentiamo subito dopo. Focus Economia. Trovati in diretta per l'ultima parte di Focus Economia. Questa sera siete in compagnia di Deborah Roscione. Ancora buona serata a tutti. Ci mancano ancora un paio di argomenti da approfondire. Qua si parla di miliardi come noccioline, e sono 50 quelli che metterebbe sul piatto Matteo Renzi con i suoi annunci di un piano di tagli fiscali, un vero e proprio patto fiscale con gli italiani, per appunto un ammontare complessivo di operazioni che valgono 50 miliardi di euro da qui al 2018. Lo avrete letto letto probabilmente sui giornali di stamattina, avrete sentito questa intervista rilasciata al TG2 poi richiamata da tutti gli altri media. L'esecutivo vorrebbe già partire l'anno prossimo con l'eliminazione totale della tassa sulla prima casa e dell'IMU sui terreni agricoli. Sulla prima casa al momento ce l'ha Tasi, perché l'IMU sulla prima casa è già stata eliminata. Poi vorrebbe nel 2017 effettuare un nuovo taglio del cuneo fiscale, quindi alleggerire la pressione fiscale a carico delle imprese. È già stato fatto un intervento sull'IRAP, ci si vorrebbe reintervenire, ritornare e poi abbattere l'IRES. Infine, nel 2018 nuova rimodulazione dell'IRPEF, un'altra sforbiciata appunto all'imposta sulle persone fisiche, e poi un intervento possibilmente sui pensionati che stanno aspettando da un bel po', si pensa ad un bonus da 80 euro come quello appunto per i lavoratori dello scorso anno. E non è chiaro, naturalmente, lo dicono tutti, intanto con quali risorse verrà finanziato tutto questo ambizioso piano di tagli fiscali, a meno che non proceda Renzi con quella cosa che in maniera un po' sibillina ha già detto nei giorni scorsi, quando era il momento caldo della rinegoziazione appunto della situazione greca. Lui vorrebbe rinegoziare sostanzialmente gli obiettivi di bilancio concordati in sede europea, cioè non l'ha già detto chiaramente, ma ha fatto capire che potrebbe anche chiederlo. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Non si può certo dire che Matteo Renzi manchi di ambizione, ma questo lo sapevamo. Certo è che questa iniziativa da 50 miliardi di euro nel giro di 3 anni è davvero significativa e consistente. Voi avete già fatto sul Sole 24 Ore, avete già messo la pagella per ognuna delle iniziative annunciate dal Premier, come sempre con rating 24, quindi per ogni categoria di intervento che il Premier ha preannunciato avete espresso un giudizio di fattibilità ed eventualmente di efficacia. Mediamente mi sembrano quasi un po' tutti promossi comunque gli obiettivi che il governo si darebbe con questo super piano di tagli fiscali. Non c'è proprio niente di... Gli obiettivi sono buoni e condivisibili, poi tutto sta naturalmente a vedere come verranno perseguiti e appunto, come dicevi tu, con quali risorse. Diciamo due cose. Uno, che in un paese come questo, schiacciato dal fisco, l'annuncio di un piano per tagliare le tasse è una buona notizia. Partiamo, come dire, da un dato di realtà. E anche dal dato che per il contesto internazionale questa è la finestra di opportunità che si può aprire per perseguire davvero un cambio di rotta sul piano fiscale. Detto questo, però, naturalmente poi c'è da fare i conti col pallottoliere, non perché si è ragionieri nell'animo, ma perché purtroppo la realtà lo impone e qui le cose si fanno un po' più complicate. Allora, lo shock fiscale annunciato, tanto per risintetizzarlo di nuovo, uno shock salutare, scriveva Salvatore Padura nella sua analisi di questa mattina, ma non dobbiamo dimenticarci che serve anche un po' di realismo oltre agli annunci. Questo shock fiscale va ben oltre la casa, che è la proprietà più diffusa, visto che quasi l'80% delle famiglie italiane vive in un'abitazione sua. Se il processo di riforme non si interrompe, l'economia continua la sua traiettoria di ripresa non più congiunturale, nel 2017 dicevamo seguirebbero gli interventi su IRAP e IRES con interventi di riduzione molto probabilmente sulle aliquote, mantenendo l'esenzione del costo del lavoro dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. E poi c'è questo che fa un po' sorridere ovviamente, ma non tanto gli imprenditori, intervento sugli imbullonati. Gianni, che appunto magari così con il termine fa anche un po' sorridere, ma sono gli impianti fissi delle aziende che sono tassati in maniera consistente, per cui effettivamente per il mondo degli imprenditori sarebbe veramente una notizia di grosso rilievo se questa imposizione fiscale venisse abbattuta. Sì, il termine imbullonati fa ridere, ma il problema è molto serio, nel senso che appunto sono impianti fissi. Essendo fissi sono immobili e quindi l'amministrazione finanziaria gli attribuisce una rendita che sostanzialmente moltiplica l'imposta sul capannone, ma la moltiplica anche di 6, 7, 8, 9 volte. Come se fossero edifici, muri proprio. Sì, esatto, trattano i torni come se fossero villette al mare, anzi li trattano in realtà peggio perché le aliquote sono mediamente più alte. Quindi quello è un intervento che peraltro non costerebbe, con tutti questi miliardi che volano, qui stiamo parlando di qualche centinaio di milioni per risolvere uno dei paradossi più gravi dell'IMU, che pesa drasticamente proprio sulle attività produttive. Noi pensiamo sempre all'IMU come un'imposta sulla casa, in realtà più di metà dell'IMU è pagata dalle attività produttive, quindi dai capannoni, dai negozi, dagli alberghi e così via. Quindi è una vera e propria palla al piede per l'economia e per le attività produttive. Poi purtroppo la politica ha le sue esigenze e le sue ragioni, e quindi ancora una volta torniamo a parlare della tassa sulla prima casa. Questa vale 3,4 miliardi, che con una media del pollo fa circa 180 euro a famiglia, parlo di media del pollo perché poi naturalmente la TASI che si paga reale dipende dalla casa che uno ha, che non è esattamente, diciamo così, la priorità dal punto di vista dell'economia o la priorità dal punto di vista della politica, perché la storia recente del paese dimostra che abolire l'imposta sulla prima casa porta a fatti. Senti Gianni, Matteo Renzi, trattiamolo con rispetto, giustamente, ha detto che naturalmente questo obiettivo e il raggiungimento di questi obiettivi del patto fiscale con gli italiani potrebbe essere garantito naturalmente solo a patto che il Parlamento vada avanti in maniera molto spedita nel processo appunto di riforme intrapreso. Quali sono quelle proprio fondamentali e necessarie a garantire all'esecutivo di ridurre le tasse di 50 miliardi in 3 anni? Che cosa deve fare immediatamente, appunto? Qual è il passo spedito che deve utilizzare, su che cosa? Ma in realtà lo scambio con le riforme è uno scambio più politico che economico, cioè Renzi dice: io vi metto sul piatto questo piano tagliatasse che promette di far ripartire il paese, ma voi le mie riforme me le votate. In realtà la cosa più urgente che il governo deve fare, e su questo i punti interrogativi sono molti, sono ancora una volta la famosa spending review, perché stando sulla terra la manovra che è in brassata già prevede 16 miliardi di euro da fare per disinnescare le clausole di salvaguardia, sì, cioè gli aumenti dell'IVA e così via, 1 miliardo almeno di euro da trovare perché i tagli alle province, le province sono già praticamente in dissesto, non sopportano ulteriori tagli, il governo lo ha riconosciuto, ma è previsto 1 miliardo aggiuntivo di tagli l'anno prossimo, quindi ha tolto trovando altre risorse, e fa 17. Il piano della casa, come abbiamo scritto in questi giorni sul Sole, fa altri 5 miliardi e fanno 22, e un po' di questi miliardi si possono trovare in Europa, cioè grazie alla congiuntura positiva, grazie al fatto che la Grecia non è salita, quindi lo spread è basso, e come dire, grazie a qualche rimodulazione degli obiettivi si può trovare qualcuno di questi 22 miliardi. Ma il grosso, diciamo 15, diciamo 16, diciamo 16, dipende dal quale sarà la situazione in autunno, devono essere trovati con il nuovo capitolo della spending review. Abbiamo due incaricati che sono il professor Perotti, sì, e Gutfeld. Non abbiamo ancora visto nulla e l'obiettivo è molto ambizioso. Certo. Lì è il punto, è fondamentale, perché se poi come dire, nei pacchetti della spending review viene fuori che vengono ridotte, magari per le fasce di reddito medie e così via, una serie di esenzioni fiscali oggi in campo, naturalmente il conto non è più del tutto positivo, perché se io mi devo esentare da 200 euro di TASI sull'abitazione principale, ma poi ho meno esenzioni fiscali perché appunto la spending review me le taglia, il conto non è più positivo. Infatti, saremo a vedere. Allora aspetta un attimo, Gianni, ti chiedo di sentire con me, sarai molto contento di farle, suggerimenti per chi è in viaggio. Al ritorno attacchiamo immediatamente le dichiarazioni del sottosegretario all'economia Enrico Zanetti sul taglio delle tasse annunciato dal suo presidente del Consiglio. Poi ti faccio solamente l'ultima domanda per poi passare all'ultimo approfondimento di questa sera. Focus Economia. siamo di fronte a una sfida certamente non impossibile, ma certamente difficile. L'importante ovviamente è avere anzitutto chiaro che una scelta così forte, che personalmente il mio partito condividiamo in toto, debba costituire una priorità assoluta. Non si possono fare contemporaneamente 100 cose diverse così radicali e significative. Noi siamo ben lieti che la scelta del governo che supportiamo sia andata in una delle direzioni che indicavamo. Enrico Zanetti, sottosegretario all'economia, ha fatto queste dichiarazioni alla Radio Vaticana. Stiamo commentando con Gianni Trovati il patto fiscale del governo con gli italiani, non ancora formalmente lanciato. Peraltro tutte queste iniziative vorrebbe metterle, immagino, Gianni, nella prossima legge di stabilità, oltre a questo annuncio di questo weekend, dopo questo incontro domenicale con il ministro Padoan. Ma ti chiedo un tuo giudizio su questo passaggio che non c'è stato, e molti hanno contestato questa mancanza al premier Renzi. Perché non ha fatto menzione, per il raggiungimento di questi ambiziosi obiettivi che si è dato, appunto, ad una qualsiasi iniziativa di lotta all'evasione fiscale? Secondo te è l'asso che si tiene nella manica per un altro momento? Perché non è esattamente il momento opportuno per farlo, dal momento che l'Agenzia delle Entrate è paralizzata, ma è molto in difficoltà per la sentenza della Corte Costituzionale, che ha sostanzialmente bocciato i cosiddetti dirigenti illegittimi, cioè i funzionari a cui erano stati attribuiti compiti dirigenziali in proroga. Poi la Corte Costituzionale ha bocciato le leggi dello Stato che avevano permesso negli anni all'agenzia di fare questo, e quindi è un po' decapitata, perché metà del suo organico dirigenziale è stato stoppato dalla sentenza. Allora, in questi giorni il governo ha lavorato un emendamento da inserire al decreto enti locali per far ripartire la macchina delle agenzie fiscali, ma questi mesi di attività a scartamento ridotto proprio a causa di questa sentenza fanno sì che il bilancio 2016 difficilmente sarà il bilancio 2015 difficilmente sarà brillantissimo. Grazie a Gianni Trovati del Sole 24 Ore per essere stato con noi. Intanto abbiamo cercato di fare una prima chiarezza di massima sul patto fiscale con gli italiani che vorrebbe sottoscrivere l'esecutivo italiano. Ne sentiremo certamente ancora parlare quando si concretizzerà ancora di più. Adesso invece l'ultimo approfondimento di oggi, parliamo del debito mondiale. Sentirete che cifre. Allora, se vi sembravano tanti 315 miliardi di euro che sono caricati sulle spalle dei contribuenti greci e che valgono il 180% del PIL di Atene, se vi sembrano tanti i 2.200 miliardi del debito pubblico italiano, beh, sappiate che solo la Cina da sola affronta 28.000 miliardi di dollari presi a prestito da governo e privati. Vi do solo un caso, tutti gli altri li faccio raccontare a chi ha ricostruito il mondo del debito mondiale. Fabio Pavesi del Sole 24 Ore, buonasera Fabio. Buonasera a te e agli ascoltatori. Tra l'altro della Cina stiamo già parlando da qualche giorno, perché proprio grazie a questa simpatica abitudine che hanno scoperto i cinesi da qualche tempo a questa parte, si indebitano persino in banca per andare ad investire in borsa. Ecco, grazie a questa simpatica abitudine che hanno preso, adesso sta scoppiando anche la bolla sul mercato azionario cinese. Detto questo, il debito mondiale vale 3 volte il PIL. Dacci qualche cifra significativa di questa fotografia che hai scattato, e che anzi in realtà forse ha scattato la società McKinsey, no? E tu sì, te la sei letta fino in fondo. Infatti il tema era proprio quello: il mondo è stato con gli occhi, come dire, sbarrati sul melodramma greco. In realtà dovremmo sempre ricordarci che la crisi, quella dei mutui subprime, cioè la vera crisi, è nata da un eccesso di debito, no? È nata negli Stati Uniti perché la gente veniva finanziata oltre misura senza essere in grado di ripagare quel debito. Ecco, passata la crisi, quindi dal 2007, passati 8 anni faticosi con 2 recessioni mondiali, noi ci ritroviamo punto a capo, cioè il tema del debito in realtà non è stato minimamente affrontato, anzi i dati dicono che dal 2007 il debito mondiale, quindi è quello che hanno sia i governi che i privati sommato, era già, come dire, alto, erano 142 mila miliardi, il PIL mondiale viaggia sui 50.000, 60.000 miliardi, quindi era già 2 volte e mezza il PIL. Bene, ci ritroviamo ritroviamo 7 anni dopo la più grave crisi finanziaria da debito, con un debito salito a 200.000 miliardi, cioè sono saliti di 17 punti percentuali il debito complessivo. Si dirà, e gli osservatori attenti dicono, vabbè, ma il debito in sé non è un problema, conta la sua la capacità di poterlo rimborsare. È ovvio che la Grecia, lo sanno tutti, è fallita, nel senso le autorità politiche ovviamente minimizzano questo aspetto, ma noi sappiamo tutti che tecnicamente i greci non riusciranno mai a rientrare in parametri, figuriamoci quello di Maastricht, che prevede un debito al 60% del PIL, è sostanzialmente infattibile. Quindi si prende tempo, trovano situazioni temporanee, si deciderà probabilmente di ristrutturare quel debito o di cancellarne una parte, questo accadrà inevitabilmente, però non dimentichiamoci che questa questione del debito alla fine rimane il grande incubo che aleggia sull'intero mondo, perché è un mondo che va, i tecnici la chiamano leva finanziaria, che va a prestito. Tra l'altro questa è una conseguenza immediata delle politiche che hanno salvato il mondo, cioè il mondo è stato salvato dall'iniezione di liquidità massiccia e da tassi che Greenspan ha tenuto bassi, e sono bassi ormai da 10 anni. Quando tu puoi prendere un prestito e lo paghi l'1%, non hai nessun interesse a usare i soldi tuoi, perché ti costa di più. E quindi è stata un'enorme sollecitazione al ricorso al debito pur di consumare, quindi sostenere l'economia. L'effetto vizioso di questa cosa è che il mondo si è tra virgolette ristabilito, ma a un passo di marcia dell'economia che è molto più basso della decade 90-2000, cioè noi assistiamo a un problema in cui la forbice si allarga, cioè tu finché hai un'economia che cresce al 3-4%, come succedeva agli Stati Uniti 10 anni fa, o alla Cina che cresceva del 12, tu puoi ripagare quel debito perché quella crescita aggiuntiva va in qualche modo ad abbassare la forchetta. Ma siccome per la Cina tu hai una crescita che oramai è scesa dal 12% al 7%, si è dimezzata, e probabilmente fisiologicamente crescerà meno la Cina perché ha saturato, voglio dire, però ha spinto con i tassi bassi, con i prestiti delle banche. Tra l'altro il sistema bancario ombra cinese vale 3 volte quello ufficiale, non è regolato. Ci sono circuiti di prestasoldi, sono circuiti di prestito dove nessuna autorità centrale può dire quella banca o quell'intermediario può darti i soldi perché è solvibile, non lo dice nessuno. E quindi in un'economia dove si vive a prestito e si vive per certi aspetti sopra le proprie possibilità, perché vivere a prestito vuol dire questo, prima o poi un re d'erazione ma arriva, nel senso che c'è un creditore che dirà adesso me le restituisci. Ovvio che poi, come è successo con i mutui subprime, il cittadino il messicano della Bassa California, i governi hanno salvato le banche aumentando il loro debito pubblico, i privati sono stati indotti a consumare. In Cina il debito è salito di 4 volte dall'inizio della crisi. Certo, sali in un paese che ha una crescita forte, sali in un paese in cui la gente ha ancora bisogno di consumare, quindi di acquisire ricchezza, però quella ricchezza è presa a prestito. Certo. La borsa cinese è emblematica. Esatto, 1,5 minuti di tempo prima dei saluti, Fabio, per segnalare ai nostri ascoltatori e per poi non far loro dire, ma qualcuno non ce l'aveva detto nessuno, non lo sapevamo, perché sappiamo molto bene quanti allarmi tu per esempio su tante storie hai dato in passato, poi se non tutti leggono il Sole 24 Ore, perché non è che sia. Detto questo, è la Cina la situazione potenzialmente più esplosiva? Gli osservatori dicono tutti che il problema cinese è grosso, perché hanno 3 bolle contemporaneamente in azione. Quella immobiliare, cioè i prestiti all'immobiliare valgono il 50% di quella montagna di 28 mila miliardi, che è 3 volte il PIL, e quindi hanno finanziato case, quelle case andranno comprate e vendute, se rimangono invendute precipita il prezzo, si è indebitato, su prime americani, seconda versione. Poi c'è una bolla del credito spaventosa, nel senso che tu hai intermediari non ufficiali che hanno aumentato del 36% l'anno i volumi erogati alla popolazione. Numero 3. E la bolla azionaria, perché tu hai gente che si indebita, i famosi, si chiama margin loan, segnatevi questa parola, sono il prestito a margine. Ecco. Uno sostanzialmente si indebita, un lontano parente del mette a pegno le azioni che ha comprato per ottenere nuovo debito e comprare nuove azioni. La borsa di Shanghai è salita del 150% nell'ultimo anno. Quando tu hai crescite così spaventose, ovvio che una caduta del 30% in una settimana dovrebbe dire qualcosa a qualcuno. Esatto, speriamo che sia stato chiaro questo monito e questo messaggio. Fabio, purtroppo dobbiamo salutarti, ma ci ritorneremo su questo argomento, so che tu lo monitorerai molto attentamente. Intanto grazie a Pietro Lacorte, Benjamin De Zulian, Leonardo Sirigato, Barbara Bianchi in redazione, insomma ho ringraziato tutti, grazie a voi per averci ascoltato fino a questo momento, vi lascio la zanzara a tutti, buona serata. Radio 24. la passione. Si sente.